música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina penso di far cosa gradita ai miei ascoltatori, ottemperando alla richiesta di una vostra collega che mi ha lasciato un accorato messaggio in segreteria telefonica. Caro Nicoletti, ti vorrei proporre una trasmissione sui vicini di casa che considero un vero e proprio castigo. La domanda da fare agli ascoltatori è: quale pena vorreste infliggere ai vostri vicini? Detta così mi sembra lievemente estrema. Quale pena? La pena molte volte potrebbe essere soltanto il fatto di dover dividere con noi rapporti condominiali. Quello dei vicini di casa è un argomento che abbiamo spesso trattato, ma è una di quelle fonti inesauribili di ispirazione. Soprattutto in questo particolare frangente, è estate, è la peggiore delle circostanze. Ci sono anche le partite della nazionale. Le finestre, per chi non ha la fortuna e non ha il privilegio di avere un impianto efficiente di aria condizionata a casa, sono naturalmente aperte per cercare banalmente e in maniera del tutto insufficiente di refrigerare le case affocate da giornate di sole. C'è quell'odore un po' di sudaticcio, un po' di frittarello, un po' di stantio che c'è nelle case in questo periodo in cui uno vorrebbe scappare via. Quindi televisori a tutto volume, non è detto che a tutti interessa seguire le partite, gente stravaccata, urla, trombettine sudafricane di cui vedo che c'è un'ampia dissertazione, l'oggetto che più ha eccitato in questo momento vari opinionisti di tutti i quotidiani d'Italia, è l'esegesi della trombettina sudafricana, questa orribile trombetta stridente. In più vogliamo aggiungere al nervosismo delle giornate, per la ragione di cui ci dicevamo ieri, siamo agli sgoccioli del momento lavorativo, inizia la lunga sfumata verso il periodo vacanziero. Insomma, mai come in questo periodo, in questa stagione, in questa particolare contingenza sportiva, ci sono odiosi i vicini di casa. E altresì dobbiamo renderci conto anche di questo. Siamo noi altrettanto odiosi per i nostri vicini di casa. Le donne mettono quei fantastici, meravigliosi, seducenti zoccoletti estivi che fanno un ticchettio assolutamente insopportabile per chi sta al piano di sotto. Gli uomini in realtà dovrebbero andarsene in ciabatte, ma le ciabatte strascicate dopo una giornata di lavoro, dopo una profonda e indolente maniera di trascinare la giornata, sono altrettanto rumorose come se ci fosse un sommozzatore che cammina con le pinne sopra il vostro soffitto di casa. In più i ragazzini sono nervosissimi in questo periodo, appena finita la scuola, non è ancora ora di andare in vacanza, dove si mandano? Ai centri estivi, non si è più abituati di gestirli dentro casa, quindi urlano, fanno casino, sbattono, giocano a pallacanestro dentro casa. Insomma, mai come in questo motivo è il momento di fare un punto su quelli che sono gli orrori del pessimo vicinato. Io vorrei vedere morto il vicino di casa, è un rompiballe, ha una voce che sembra un energumeno. Oppure tagliare solo la lingua, tagliare in due la lingua come i serpenti. Se possibile, se puoi eliminare il cane davanti a casa mia che abbaia sempre e il neonato della mia vicina di casa, grazie. Vorrei far fuori il mio vicino di casa, ha un vocione che è un cavernicolo, però l'unico problema è quando gli tagli la testa, ho paura che questo vada avanti a parlare. Arriviamo a dei parossismi inimmaginabili, ma la calura estiva porta a questo. Dobbiamo avere sempre abbastanza chiaro in mente l'esempio fulgido e nefasto di Rose Olindo, coloro che fece una vera strage semplicemente perché i vicini di casa erano rumorosi, perché non erano allineati con il loro modello di nitore, di dignità di esistenza. I vicini di casa si dividono in varie categorie. Ci sono quelli completamente inosservanti di ogni regola del buon senso, la buona convivenza, che sembra impossibile, entrano, escono lindi, carini, ben vestiti, li vedi uscire la mattina, li vedi rientrare la sera, con tutti i loro bambini ben pettinati, ben ravviati, ben vestiti. Dentro casa poi si scatena l'inferno. urla, strilli, scannamenti, singulti, frammenti di incontri orgasmatici, ma magari fossero quelli, nel senso sembrano gorgogli di persone sgozzate. E in più i bambini trasformano in una sorta di orribili alieni mutanti, camminano sulle pareti. Molte volte si sentono, dai vicini di casa, dei rumori in luoghi impercorribili dei loro appartamenti. Come è possibile sentire le persone camminare sul soffitto, camminare sulle pareti? Eppure questo a volte accade. Nicola, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Complimenti per la trasmissione, sono un affezionato di questa trasmissione, anche quando si chiamava con la parola non anagrammata. Bravo, vedo che lei sa che non va pronunciata quella parola. No. Senta, io volevo introdurre un concetto che mi è stato insegnato anni fa da una persona per la quale, nonostante l'abbia persa di vista, mantengo una grandissima stima. E diceva che la cosa faceva il boia? Cosa faceva di mestiere? No, faceva il bancario. Ah, vabbè, ora più o meno. In pensione. Però aveva un concetto meraviglioso della libertà personale. Diceva che la libertà personale finisce dove inizia quella del tuo vicino. Per l'appunto torna proprio bene con il titolo della trasmissione. Ma lei ha avuto problemi con i suoi vicini? Ha problemi? Ma io, per fortuna, sono andato ad abitare in un condominio da poco. Fino ad ora non ci abitavo e sono stato fortunato perché sono tutte persone molto civili. Aspetti, però, calma, il vicino si capisce sulla lunga media distanza. All'inizio portano la tortina, vengono a salutarti, ci si scambia i favori, ci si saluta sempre sul pianerottolo. Veda lei quando cominceranno i primi problemi, le prime riunioni condominiali, le prime decisioni da prendere, se va ritinteggiato e no l'androne, se va cambiata la serratura, se occorre rifare il tetto, se la facciata ha bisogno di un restauro. Vedrà come si comincia poi a ragionare con i vicini. Terrò in serbo queste previsioni. Vabbè, faccia sua la massima del suo amico bancario, 800 24 00 24. Facciamo un punto del nostro rapporto con i nostri vicini di casa. Alda, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti, io l'ascolto, spesso non sono d'accordo con lei, e penso che sia una provocazione per lei la normalità. Io ho cambiato casa molte volte, visto che ho una certa età, e ho avuto sempre degli ottimi vicini, degli ottimi rapporti, vicini con cui sono anche dopo 30 anni sono ancora in contatto. E penso che questa sia una provocazione, perché forse per avere degli ottimi rapporti con i vicini bisogna saper conoscere le debolezze umane, le proprie, quelle degli altri. Sì, se uno ha la vocazione di fare la Croce Rossina, il missionario, il salvatore dell'umanità, ma se uno ha semplicemente la vocazione di non avere le scatole rotte dai vicini, è un po' difficile. Assolutamente no, non penso di essere sempre stata fortunata, penso di aver avuto vicini con 3-4 cani che abbaiavano sempre, ma di aver lo stesso mantenuto dei buoni rapporti e che hanno fatto sì che questi cani venissero magari tenuti in casa nelle ore del riposo, senza che per questo rompere i rapporti. Quindi lei, diciamo, la sua formula di salvezza e vittoria è rispondere con gentilezza, spiazzare il vicino invadente, non arrivare mai al contrasto. Certo, credo che questa sia la formula vincente. Lei, la parte sua, è la perfetta vicina, silenziosa, con le pattine sotto i piedi, sempre volume basso in tutti i suoi apparecchi. Certo, no, le pattine no, ma le ciabatte che non fanno rumore sì, i bambini, che io ho avuto 3 bambini, quindi adesso sono più che adulti. E come li ha silenziati negli anni della crescita? Certo, gli ho insegnato una formula di educazione che loro, a loro volta, uno ha 5 figli, quindi si immagini, dai 13 all'anno e mezzo, ha dei vicini di casa anche lui, e cerca anche lui di moderare il rumore, soprattutto nelle ore del riposo, perché poi i bambini non è che si possono... Va bene, mettere... ma a me fa piacere, creda, che esista anche, oltre al lato oscuro della forza, qualcuno che si sforza per mantenere buoni rapporti con il genere umano, quindi le fa onore quello che dice. Sentiamo Biagio. Biagio, buongiorno. Buongiorno, grazie, perché vi ascolto sempre. Questa volta fortunatamente sono riuscito a prendere la linea. Niente, io portavo la mia testimonianza in quanto io ho sempre abitato in un condominio da che sono nato e mi sono sempre trovato benissimo. Un po' di anni fa sono riuscito fortunatamente a prendere una porzione di una casa e da lì è nato il tutto. Ho fatto sicuramente una scelta non pessima per la casa. Quindi questa è una mattinata di idillio, non esistono problemi di vicinato, siamo tutti una grande meravigliosa famiglia, ci vogliamo tutti bene, ma io sono contento, mi fa piacere, una bella giornata. Le stavo dicendo che in condominio sono sempre stato bene, adesso che ho comprato questa casa, disastro. E ma con chi si scorna, scusi, se abita solo? No, io sono confinante con un altro, una casetta a schiera, quindi ho l'altro confinante che radio, animali, pappagalli, rumori, le scale, quasi da pensare di vendere tutto e scappare e ritornare un altro. Ma non può mettere in atto delle forme di ritorsione iniziale per vedere se riesce a qualche maniera a dissuadere? In 4 anni di, per cortesia, non fare, per favore, mi raccomando, sai, le scale sono adiacenti al muro, quando vai sopra cerca di avere un comportamento più consono, eccetera, invece nulla, eccetera. Invece nulla, dentro panorecchio e fuori dall'altro. E qual è la cosa che più le dà fastidio a questo vicino? Credo la sua arroganza, anche perché lui tutto è concesso e a noi d'altra parte diciamo non è concesso praticamente nulla. Quindi lei subisce? Io subisco fino a un certo punto, adesso siamo andati anche per via, insomma, tra parentesi legali. L'ha denunciato? Lui ha denunciato me perché io ho messo una siepe di confine per una questione di privacy e a lui addirittura le siepi, le rose, sta tutto il giardino curato, comunque gli dà fastidio, chissà perché. Niente, è una guerra insanabile, o lei comincia a mettere in campo le armi pesanti e decide di combattere all'ultimo sangue, o se no forse è meglio proprio che cambi casa, perché se no non ne esce vivo. Comunque sì, che funziona a volte, perché ho visto che comunque ha avuto dei suoi risultati, soprattutto perché gli urta ancora di più l'indifferenza, lasciarlo nei suoi, e lui piano piano a volte ha cambiato anche tipologia di atteggiamenti, perché più che noi insistiamo a metterlo tra parentesi sulla buona strada, e più lui si indispettisce. Forse no, lui non interessa molto di andare nella buona strada, nel senso non vuole essere convertito, vuole semplicemente usare la sua spocchia come sua formula di felicità. Quindi noi lo lasciamo lì che si cucini sul suo brodo e a volte non ma comunque mi fa piacere, capire e vedere che diventa l'oggetto dell'occupazione quotidiana. La lite col vicino ci riempie le giornate, e accorgersi che un vicino non ha proprio niente di meglio da fare che occuparsi dei nostri piccoli rumori, di darci fastidio, significa che la gente ha una gran parte di tempo a disposizione da impegnare in hobby, passatempi. Uno di questi potrebbe essere anche renderci la vita difficile. Dei miei vicini serial killer, cioè sono una famiglia di 3, tipo padre, madre, figlio trentenne che vive a casa, informatico, e tipo loro d'estate si siedono sul balcone, senza televisione, senza libri, senza giornali, stanno seduti, zitti, a guardarsi, immobili. Chiudono sempre le porte a chiave, ma a questi livelli, che se uno è nel giardino davanti, se uno è nei 3 metri quadri davanti a sistemare il giardino, che è maniacalmente tenuto ovviamente, e la moglie, in casa, quando lui esce chiude a chiave la porta, poi rientra, apre la chiave la porta, chiude la porta e la richiude a chiave. Ovviamente, cioè, la casa sembra una sala operatoria, non si parlano mai, il figlio come unico passatempo ha gli uccellini, si parlano solo a monosillabi, e nessuno dei vicini intorno, dico nessuno, sono casa a schiera, quindi hanno molti vicini, non scambia nemmeno una parola con loro, perché sono assolutamente, hanno questo comportamento da automa. Beh, questa è una chiara descrizione di una famiglia di serial killer. Con la villetta schiera all'interno sarà arredata come una puntata di hostel, avranno sicuramente motoseghe, fiamme ossidriche, seghetti multipli, trapani da dentista, saldatori, avranno quanto di meglio per passare il loro tempo, questa famiglia silenziosa, gelida, che non si parlano mai, si chiudono le porte a chiave alle spalle, il figlio alleva uccellini e poi un informatico, ci sono tutte le caratteristiche. Ma avete osservato, spiato, sapreste raccontarmi degli episodi di simili. Tirate fuori quanto ne sapete dei vostri vicini, che il vostro vicino mai avrebbe pensato che riuscisse a trapelare. Oggi la maggior parte degli appartamenti hanno mura di carta velina. La vita del nostro vicino è trasparente, e come la nostra trasparente per lui. Cosa avete capito, l'umanità, ascoltando e spiando il vostro vicino? 800240024. Michele, buongiorno. Buongiorno, chiamo dalla provincia di Como. Volevo dire che spesso nelle dispute condominiali c'è una giustizia divina. Beh certo, Dio c'è, chiaro. Ogni tanto qualche certo. vicino gli crolla la casa sulla testa, ci sono degli incidenti. No, non c'è bisogno di essere così drammatici. Guardi, le racconto il mio caso, già il fatto che mi sente così compiacente le farà capire che è una cosa anche simpatica. Io purtroppo vivo con l'onta di possedere un cane, di conseguenza sono io l'oggetto, in verità sono io il persecutore. Guarda, io ho avuto cani per una decina d'anni circa. Adesso, a posteriori, che ho figli, dico onestamente che ho un cane un po' le scatole le rompe, sì, onestamente, siamo sinceri. Quella bella puzzettina di stalletta che c'era a casa, io me la ricordo, oggi mi fa orrore, ma allora ci sguazzavo felice. Quell'alone nerastro lungo le pareti, perché il mio era uno Scottish Terrier, quindi lasciano una scia nerastra di unto. Io amavo tanto quella striscia, però a pensarci oggi mi fa un po' di ribrezzo. No, questo è vero, però ecco, non si deve dare per scontato che chi possiede un cane già mette in atto tutta una serie di cose per rendere la cosa meno disturbante. Invece chi ti vive accanto dà per scontato che sei un incivile, invece non sa che tu magari il cane potresti mandarlo fuori 100 volte di più, ma ci stai attento e qualche volta poverino dovrà pure uscire. Sì, l'odiatore di cane è quasi peggio del maniaco degli animali. Sono due categorie. L'odiatore di cani è terribile perché sta lì, guarda col microscopio, si trova un pelo nell'ascensore, ti suona e te lo fa vedere con la pinzetta. Sì, sì. E comunque il bello che le volevo dire è che io comunque andrò via da questa casa, non per il motivo del cane, ma perché ho trovato una casa singola, un'opportunità migliore. E lei non ci crederà, ma credo che qualcuno si è saputo, perché c'è il cartello della casa in vendita, qualcuno è quasi contento perché finalmente questo scocciatore se ne andrà. Lei non ci crederà, ma io la casa la sto vendendo a una signora che arriverà con due cani. Ma meraviglioso, di grossa taglia spero. Eh? Di grossissima taglia. Assolutamente sì, e guardi che non abbiamo ancora concluso la trattativa, ma sono disposto a farle degli sconti perché questa cosa è troppo bella. Quindi speri che sia quei cani che sbavano, che c'è quel bel filino di bava che rimane attaccata dappertutto, sarebbero i migliori. Meglio sarebbe uno a pelo lungo con muta almeno paio di volte all'anno e uno sbavatore. Guardi, non voglio forzare il destino. Con incontinenza e un minimo di tendenza all'interite sarebbe meglio. Non voglio forzare il destino, già così è bello, adesso non voglio forzare la mano. Poi magari non va bene la trattativa, sa com'è. Vabbè, avendola sentita questa mattina, la signora accelererà senz'altro le pratiche e andrà a rendere felici i suoi vicini con la sua muta di cani, saranno maschio e femmina, si accoppieranno spessissimo e faranno tanti cuccioli. Melog 2.0. Questi sono i pancreas che mettono il dito su una delle piaghe più purulente del vicinato. Al vicino puzza il fiato e gli puzzano le ascelle e si nota soprattutto nell'ascensore. Ho un'infinità di messaggi su Facebook, in rete si stanno sfogando sul mio profilo le persone a raccontare le storie di vicinato. Dice: il vicino peggiore per me, Cristina, è quello che sta dietro le finestre attendendo il rientro per piazzare sulla porta un biglietto minatorio. Sì, chiudete l'ascensore, innaffiate le piante, lasciate lo zerbino piegato e queste cose del genere. Una delle aspirazioni sempre di Maria Cristina è squarciare le gomme dell'auto per manifestare il proprio disappunto per il parcheggio all'interno del condominio. Questa è una situazione limite. Attaccare lo stereo a tutto volume, dice Alessandra, alle 7:30 la mattina, in corrispondenza alla camera da letto di quella che gira per casa alle 4 di notte coi tacchi, ad esempio. Io ho il mio home theater con le casse rivoltate contro il muro del vicino di casa per ottenere lo stesso scopo, ma lo dico per scherzo, perché poi tante volte mi sentisse e pensa che è anche vero. Poi il più classico è rubare le bollette alla posta, ovviamente dei pensionati rompiballe che non le domiciliano, bellissimo, o scambiarle. Cambiare casa, dice uno, è una cosa migliore. Anni fa, dice Cristiano, ho staccato per giorni il contatore elettrico del mio vicino di casa, che aveva lasciato la radio sveglia pronta, puntata alle 5:30 mentre era in ferie, finché gli ho scaricato la batteria. Sai che sorpresa, rientro, congelatore in affanno e la moglie mia che non ha capito il gesto. No, invece è un gesto profondo. Ugo, buongiorno. Buongiorno a lei. Prioritariamente, dottor Nicoletti, mi consenta di farle i complimenti. No, guardi, allora facciamo una bella cosa. No, d'ora in poi segherò e non permetterò più di parlare, chi farà i complimenti per la trasmissione. Ho sopportato a lungo. È un complimento personale. No, ma non vanno fatti, è terrificante. Allora, nessun complimento. Allora, veniamo al punto. Io prima ho 69 anni, abitavo in centro di Salerno, in un appartamento di proprietà, l'ho lasciato proprio per non sopportare più gli abusi dei vicini. Ero al quarto piano, quindi si immagini 24 condomini. Sono andato ad abitare in un'abitazione di proprietà in periferia, in campagna, in periferia di Salerno, e purtroppo mi sono trovato con dei personaggi che hanno realizzato dal 1976 un parcheggio di autotreni su un'area di 17.000 metri di suolo. Lei non lo sapeva questo? No, peraltro è abusivo, non hanno nessuna concessione edilizia. È ancora più difficile sradicarlo il fatto che sia abusivo piuttosto che sia legale. Cosa li vuol fare gli abusivi? Hanno fatto di tutto e di più, hanno addirittura installato senza concessione un distributore ad uso privato di carburante. La distanza tra me e loro è di 4 metri massimo. Quindi lei rischia di saltare in aria ogni minuto, naturalmente. No, questo no, ma abbiamo fatto... Beh, morto giudizi. Bruciato sì, però. Ma è a distanza, è, per la verità è distanza dalla mia abitazione di un 40 metri, ma è vicinissimo a un fiume, quindi è anche una questione di inquinamento. Però lei non ha speranza, di fronte a un abuso così palese vuol dire che hanno tali e tanto potenti protezioni questi signori? No, mi spiego, mi scusi che l'ho interrotta, le spiego. Io ho vinto una causa per danni di primo grado, è riconfermata in appello, per cui hanno dettagliatamente fatto delle prescrizioni, pannelli fonoassorbenti. L'hanno applicate queste? No, assolutamente no, allora... però dopo 30 anni sono riuscito finalmente il 12 di novembre a far sequestrare dal NOE, dai carabinieri, il parcheggio. E ma quindi... loro imperterriti continuano a sostare con un autotreno quotidianamente su un viale in comune, impedendomi l'accesso alla mia abitazione. Ma io non voglio sembrarle cinico, lei ha detto a 69 anni, se aspetta altri 30 anni per far togliere questo autotreno, secondo me poi non se lo gode manco più tanto il suo spazio libero. Le consiglierei di abbandonare questa faticosa e sfibrante battaglia e cercarsi un'altra casa. Dania. Ciao, buongiorno Gianluca. Allora, il mio problema, una signora di 70 anni circa che si è trasferita a Vedova e si è trasferita qui accanto a me da circa 2 anni, sta diventando il mio incubo peggiore. Cosa fa? È brava, è disponibile, è gentile, ma è invasiva. Mi viene in casa con qualsiasi scusa e poi si piantona lì a parlare un'ora. Ma perché la fa entrare lei, scusi? Perché sarò Croce Rossina, ma le tutte prima. Dica faccio? No, dica non la voglio far entrare. Dica, no, non posso. Perché non può? Io non capisco questa sorta di altruismo coatto. Se non ci sta male, dica la vecchia, lasciami in pace. Sto trombando, non posso farti entrare. Inventi una scusa impossibile, ma dica qualcosa. Ma poi mi sta a parlare un'ora, parla solo lei perché ho tutto. Sì, ma lei le sta bene, guardi, lei si autoinfligge questa punizione, quindi non mi fa nessuna pietà. Ci sono mille modi per allontanarsi le vecchie, esiste il derattizzatore, esistono le bombolette puzzolenti, esistono le maniglie elettrificate, esistono i cavalli di Frisia, esistono le strisce chiodate, esiste il saldatore, ci sono tanti modi per allontanare una vecchia. Se la fa entrare, la sta a sentire, vuol dire che lei si sente talmente in colpa verso la vita che deve infliggersi, forse non ha sentito durante la vita i suoi genitori, non so, c'è qualche motivo, vada a farsi vedere da qualcuno. No, non c'è nessun motivo, sarò masochista. È un po' sì, mi dà questa impressione. persone. Quindi questo non è un caso di vicina insopportabile, è un caso di simbiosi fra una giovane ragazza che ama essere martirizzata e una sadica vecchia che non vede l'ora di stare lì e fare a lei il male che non ha saputo fare ai suoi figli durante tutta la sua lunga vita. Silvana. Buongiorno. Buongiorno, sono Silvana e abito a Lodi. 5 anni fa ho cambiato abitazione dalla città, mi sono trasferita in campagna perché ho diversi cani e pensavo di stare tranquilla. La mia casa è già in vendita. Perché cosa è successo? È successo che abito in questo paese che ha delle piccolissime frazioni, ad esempio dove abito io siamo solo 4 famiglie. Beh, siete troppe. Isolati nella tormenta quando invece. Esatto, siamo sulle rive del Po. Allora, la mia casa confina con quella di, quando sono andata a abitare lì, con quella di 2 famiglie, erano 2 fratelli che fra loro non si parlavano da 20 anni. Beh, questo è un vantaggio, almeno stanno zitti. Non si, però una di queste famiglie, quella più, diciamo, simpatica, più civile, è andata ad abitare via perché non ce la faceva più. Dopodiché quelli che sono rimasti, naturalmente hanno preso possesso di tutta la proprietà e spadroneggiano, sono molto arroganti. Ma in pratica elenchi in pratica è questo. I disagi. Sì, la loro proprietà per una parte dove tengono i cani loro, mi scusi la confusione, hanno 7 cani, li tengono. Lei 4, loro 7. Mi scusi. Lei 4 cani, loro 7 cani. Io 5 cani e loro 7. Il problema è che io i miei cani me li tengo in casa e poi usciamo, facciamo la passeggiata oppure hanno il giardino, ma dormono in casa, eccetera. I loro cani sono da caccia, purtroppo loro non vanno neanche a caccia e li tengono sempre chiusi. In gabbia. In gabbia. Il problema non è l'abbaio dei cani o il pianto dei cani, perché è il fatto che io so che hanno un disagio. Quindi lei da canara indefessa soffre per i cani di questi vicini, non per è che cani. Lei vorrebbe liberarli e portarseli tutti a casa, dica la verità. Io sogno, a volte mi fermo quando mi rilasso e dico adesso sogno, cioè apro una parentesi, so che sto sognando, e sogno delle cose tremende. Tipo? Di poterli ingabbiare loro al posto dei cani. E darli in cibo agli stessi cani. No, non quello, però di farli patire quello che provano i loro cani. Vabbè, guardi, questo è il delirio di una canara, mi creda. È un pochino legato, la situazione è un po' particolare, che state voi in una sorta di isolamento dal mondo, in una situazione cino-immersiva che è abbastanza delirante. Quindi lei soffre per i cani, non è tanto per il vicino. Se il vicino scomparisse, lei libererebbe i cani, sarebbe felice. È vero, Anita? Anita, niente, se la sono mangiata. Pronto? Eccola. No, ci sono. E, praticamente, allora, la storia... Intanto spero che non mi ascoltino i miei vicini, perché sennò... Non posso assicurarglielo questo. Vabbè, se dovessero ascoltarmi, gli dico che sono comunque divertita da queste cose. Beh, che vada al punto, cosa succede? Esatto, allora, praticamente abbiamo un vicino losco. Siamo una palazzina di ragazzi giovani e uno di questi è molto... Praticamente un sabato di qualche settimana fa, alle 4 della mattina vari campanelli hanno suonato in contemporanea e strilla, urla e cose arrivavano dall'androne della scala e praticamente io poi non c'ero, non sono neanche svegliata, insomma, e il giorno dopo c'erano tutte gocce di sangue con in mano della scala, sulla scala. Cioè sgocciolava sangue dalla casa del suo vicino losco. Esattamente, su tutte le porte, poi dove c'erano i campanelli c'erano le chiazze del sangue che si vede che si era appoggiato, insomma. E avete chiesto cosa fosse successo? Sì, praticamente ci eravamo anche un po' preoccupati, tipo abbiamo aspettato. Lui vive solo, vive questo vicino? Sì, e se era uscito, che non fosse morto, cose del genere. Poi l'ha rivisto, insomma, vivo? L'abbiamo rivisto vivo e lui... Camminava anche in maniera un po' strana, ciondolante? Sì, sì, praticamente. No, potrebbe essere uno zombie il suo vicino, magari non... No, perché un po', cioè, poi non è solo successo questo, tipo è la prima volta che mi ero trasferita in questa casa, avevo fatto il trasloco molto presto di mattina e questi 3 omaccioni grossi, insomma, sono usciti e si sono sdraiati sul loro macchinone, il SUV che avevano parcheggiato sotto casa. E poi non so, c'è sempre giri. Ma allora sono in 3, notte. Non è uno solo losco, sono in 3. No, sì, perché lui ha sempre queste compagnie maschili, no, ma nel senso maschili oppure. Ma lei cosa vorrebbe sottintendere? Cosa fanno a sangue che poi questi uomini? Ma qualche sottino, sempre cose un po'. E vabbè, quindi fanno, secondo lei, dei parti sadomaso, si frustano? Sì, Secondo me sì, sempre perché io ho la parete gonfiata. Ma sente le urla, le scurisciate? Se mi sente, io gli dico guarda che può continuare a farlo, basta che insomma... Cioè, ma quindi lei sente chiaramente le scurisciate del vicino? Io sento urla. E beh, le dica tutte, sì. Le dice un pezzo per volta, non ci fa capire. Praticamente allora... Mi dispiace per quell'innocente che le piange accanto, però è giusto sapere. No, poi un'altra mattina tipo mi ha suonato alle 7:30, 8 della mattina chiedendomi una sigaretta. Eh beh certo, doveva fare le bruciature tipiche di questi spettacoli. No, vabbè, però voglio dire, quell'ora lì, cioè, ci sono anche i distributori aperti, cioè se uno non riesce a uscire di casa per andare a prendere... Ma se uno non può lasciare il lavoro a metà, c'ha uno lì pronto, legato prono su una sedia, deve bruciarlo con qualcosa, se non c'ha la sigaretta come fa? No, ma poi quando c'è stata la serata questa qui del sangue, insomma erano in due e c'era uno probabilmente che era stato il proprietario, che era stato chiuso fuori di casa e lui batteva la sua porta, insomma c'è qualche cosa di strana c'è stata. E quindi? Il tempo non c'era il suo nome nel campanello, ce n'era un altro. Ma sarebbe curioso di entrare e vedere cosa succede durante queste feste. Sì, poi ho visto un pezzo di casa ed è fighissimo, cioè tutta super figa, tutta con? Cioè di ultramoderna, cioè molto bella, non so, una cosa strana, insomma, un po' è una storia losca. Ma c'è un via vai avanti di ragazzi, ragazze, persone che vanno e vengono? Sì, c'è un gran via vai. Con degli occhi un po' dilatati? Sì, beh, no, infatti. E con un fare molto frettoloso si scambiano dei pacchettini e poi se ne vanno? No, quello dei pacchettini non lo so, però... No, perché la casa bella, il macchinone, il via vai, mi viene in mente che magari c'è un giro di spaccio in quella casa, potrebbe essere, non lo so, mi viene un'ipotesi. No, più che spaccio di festini, proprio, di festini. Perché... Beh, lei muore dalla voglia di andarci, guardi, trovi una babysitter, lasci quell'innocente che le piange accanto e vada lì e faccia il salto della sua vita e vediamo se ne uscirà migliorata. Melog 2.0. Salvo Nicoletto, io sono francese e sì, tutto quello che sta parlando, il cane che abbaia e così, noi si chiama la polizia, vengono una volta, vengono due volte, dopo sono cavoli a mare e poi in Italia sono molto molto maleducati. Bisogna cominciare da piccolino. O io sono strana o sono molto fortunata, perché ho 60 anni, ho girato 3 condomini e non ho mai avuto problemi con i miei vicini. Mi rendo conto che rispetto a tutte le altre trasmissioni che abbiamo fatto sui problemi con il vicinato, oggi ha assunto una deriva del tutto particolare e imprevedibile. È lo spionaggio strenuo e eccitante delle follie che abbiamo separati semplicemente da una parete di cartongesso o di foratini. Stanno venendo fuori degli universi fantastici, da film dell'orrore, da Dario Argento, ci vede una serie di film, Carrie lo sguardo di Satana, il soffitto che gocciola sangue, i vicini mostruosi, il vicino che fa i festini sadomaso, sembra una scena di Pulp Fiction, i due venditori del drugstore che poi nel sotterraneo c'hanno uno tutto ingabbiato nella gomma tenuto dentro un armadio, che come rapinano il capo dei delinquenti, lo portano sotto e gli fanno le peggiori sevizie, e allora alla fine quando si libererà chiamerà due ragazzi con un buon saldatore per fare un lavoretto medievale a questi signori. Mi viene immaginario che questa tenera mammina che ascoltava, seguiva, spiava e occhieggiava non vedeva l'ora di entrare anche lei in questo gioco. Francesco, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Io sono circondato, nel senso che al piano sopra c'ho un medico a cui hanno tolto la possibilità di fare il medico perché è completamente matto e urla tipo heavy metal. Alle 3 di notte inizia a urlare delle bestemmie, però tipo con la musica heavy metal, quello più violento di tutti. Ah. E quindi inizia a fare così. Io avevo una mamma che passava la notte a camminare coi tacchi su e giù per la casa. E poi al lato invece c'è un padrone di cane che abbaia più del cane, nel senso che sempre verso le 3 di notte si mette a urlare il nome del cane a fortissima voce, in un modo ripetitivo e continuo a chiamare il suo cane. E quindi è un centro di igiene mentale casa sua? Sì, in una zona molto borghese di Milano. Lei è l'unico sano? Ma no, questo non lo so se io sono l'unico sano, anzi cerco di fare tutto per non esserlo, però il problema è che almeno se ho un cane, di solito il cane abbaia più di me, o fa più rumore di me, o comunque... Quindi un medico che urla al piano di sopra? Con medico che urla, poi c'è tutto un via vai sì, strano, sindrome di coprolalia e cose del genere, dice parolacce continuamente. Sì, si mette a urlare, ma però con sai quelle heavy metal che c'è troppo un nome, si mettono delle maschere come da e urlano con questa voce cavernosa. E poi tutta una serie di strani rumori, nel senso che ogni tanto si accendono macchinari strani. È vero che nell'immaginario del vicino mostro, l'immaginario da hostel è quello che più per, lei immagina che sopra ci sono gli strumenti di immaginazione di esseri umani più perfezionati possibile. Diciamo che questo medico adesso io da hostel non me lo farei perché non è così pericoloso. Diciamo che ha una grande passione per, credo, le donnine, per cui lui c'è un via vai di donnine e poi contemporaneamente non sapeva fare il medico, perché era un medico che andavi lì. Sì, ma se urla e bestemmia non è con queste donnine ci si diverte poi perché tanto. Perché la mamma forse si arrabbiava un po' con le sue donnine, allora lui poi aveva queste frustrazioni che sfogava. E la mamma che fine ha fatto? È deceduta e lui è diventato gaissimo e felicissimo e adesso è appunto molto più donnine. Ah, si è gaggizzato quando la mamma se n'è andata. Si è gaggizzato, esattamente. E le donnine non ci sono più? No, c'è un discreto via vai. Ma quindi è un secondo pari o dispari, cambia atteggiamento a seconda della giornata. Vabbè, vedo sì, che non è un serial killer, è un allegro casinista, però è tanto casinista e tanto psicopatico, insomma, assolutamente delirante. Come beh, però questo, scusi, con la monotonia degli spettacoli televisivi, delle serate, a lei che non piacciono le partite probabilmente, si mette ad auscultare la parete di casa sua, è come vedere un film. Sì, no, devo dire, io preferirei dormire, però effettivamente è interessante, fra lui e quell'altro accanto, perché lui ce l'ho sopra, l'altro ce l'ho di lato, che urlano, sbraitano di notte, uno chiamando il cane, quell'altro interpretando canzoni heavy metal, hanno tutti e due sui 70 anni. Vabbè, vedo che alla fine potrebbe esserci un profondo sentimento di invidia per questi vicini che comunque si divertono, trasgrediscono. Maurizio, chiudiamo con Maurizio. Salve. Allora, estate della maturità, quasi 30 anni fa, noi studiavamo a casa mia e alle 5 del mattino una coppia di vecchietti attaccava col giornale radio. Allora, con la complicità di un fratello radioamatore, abbiamo confezionato un falso giornale radio, gliel'abbiamo, come dire, trasmesso su quello vero, e la notizia di apertura era che per mancanza di soldi per le pensioni gli ultra settantenni si dovevano presentare all'ASL per l'abbattimento. Addirittura chi, come dire, fosse stato renitente a questa disposizione, delle squadracce sarebbero andate in giro per la strada a prendere questi poveri vecchi. Sembra un racconto di Dino Buzzati, che girano delle squadre dagli al vecchio per eliminare i vecchi. E quindi il risultato è stato che per almeno una settimana non si è sentita voce in quell'appartamento e noi abbiamo studiato. E si erano naturalmente insonorizzati, erano entrati in clandestinità per paura di essere abbattuti. Esatto, è un po' elaborato, però il sistema è stato efficace, funziona, ci vuole molto tempo a disposizione e molta poca voglia di studiare, comunque vedo che il risultato è ottenuto. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Alessandro Chiappini, grazie a quanti mi hanno raccontato i segreti passatempi lubrichi dei propri vicini che mi hanno fatto divertire. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.